Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 3 minuti, oggi è giovedì 22 marzo 2012, una data importante per il sottoscritto perché sto conoscendo una bellissima persona sia dentro che fuori, ma ne parliamo tra qualche istante. Intanto buonasera ai nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto, buonasera sempre anche al mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa è la vostra emittente, come piace sempre dire al sottoscritto, cioè Blu Radio Veneto. Trasmettiamo nelle frequenze di 88 e 700 e 94 e 600 MHz in modulazioni frequenza per quanto riguarda il Veneto, altrimenti siamo in streaming, quindi collegati con tutto il mondo, e vi posso garantire che abbiamo già avuto riscontri mondiali, quindi questo è un vanto nostro, vero Maurizio? Decisamente. Invece, se ci volete contattare, vi ricordo il nostro numero telefonico, quello in studio, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms e se volete interagire con la nostra artista di questa sera, vi ricordo è il 346 23 20 033. Ancora le pagine su Facebook è semplicemente Blu Radio Veneto, oppure semplicemente Blu Radio Veneto Rockwave per quanto riguarda la musica rock gestita da Alberto Prisco, che vi ricordo sarà subito dopo di noi alle 22:30 con le novità discografiche nell'ambito di questo genere di musica, cioè la musica rock. Il nostro sito www.bluradioveneto.it, e lì ci trovate tutte le informazioni possibili e immaginarie della nostra regione, ma anche non solo, le recensioni, appuntamenti eccetera eccetera, tutto quello che può riguardare la musica e anche fatti di cronaca. Ho detto tutto, spero proprio di sì, a questo punto con molta gioia. Veramente voglio salutare una carissima persona che doveva essere qui presente ancora a febbraio, ma purtroppo la neve non ci ha permesso questo incontro, ma diamo il benvenuto a Gilda. Ciao Gilda. Ciao, ciao, che bello, che piacere essere qua, veramente finalmente direi. Benvenuta Gilda Reghenzi, ovviamente. Insomma. Grazie. Sei qui amorevolmente. Assolutamente. Amorevolmente perché vi voglio troppo bene. Grazie. Grazie. Hai battuto anche la neve, non è mica facile battere la neve. Ci sei. Allora, sei venuto a presentarci questo disco che io, sì, appena Paolo Salvarani, che salutiamo, che poi presenta anche lui. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. E poi abbiamo anche il tastierista, cioè Luca Rossi. Ciao a tutti, sono qua anch'io amorevolmente, un po' di meno però. Beh, però se non ci sei tu, la Gilda magari ci cantava a cappella, insomma, giusto? Beh sì, però lui è fondamentale, devo dire, no? Non può mancare. Allora, questo disco, Gilda, Amorevolmente, è nato da che? Da quale idea? Allora, dalla grande mente di Paolo Salvarani, devo dirlo, qui lo dico. Ecco, è qua presente. La grande mente, perché è proprio, è senza capelli, quindi è tutto così. È tutto a capocchia. Esatto. Perché Paolo cos'ha per quelli che si capelli? No, infatti. Qua siamo in maggioranza, senza capelli qua. No, comunque è nato circa un anno e mezzo fa, appunto da Paolo Salvarani, e devo dire un grande regalo per me e per tutti quelli che comunque hanno partecipato a questo lavoro, che è davvero stato durante il percorso proprio si è arricchito di persone, di presenze, di musica, di musicisti, e quindi insomma andando crescendo è arrivato poi questo grande risultato che devo dire mi sta appagando molto. Sì, proprio hai detto una cosa giusta, è frutto di una voglia, di una grande voglia di far musica. Sì, anche perché devo dirti che io ho iniziato parecchi anni fa, non perché sono vecchia, ma perché ho iniziato molto giovane. Precisiamo, precisiamo, giusto che precisiamo. E praticamente ho iniziato appunto tanti anni fa e senza mai concretizzare un lavoro su un CD quantomeno di questa importanza. E quindi ho pensato, perché non concretizzare con un lavoro tutta la tua gavetta, tutto quello comunque che hai fatto fino adesso. E allora ho detto, caspita, perché no? Insomma, forse è arrivata la mia maturità e è arrivato il momento per poterlo fare. E senza però pensare di riuscire ad avere delle collaborazioni così importanti, appunto dai musicisti a persone che comunque hanno lavorato nel progetto, diciamo per la parte tecnica. E è andato sempre crescendo perché le partecipazioni sono state, come appunto detto prima, tante. E vorrei citarli innanzitutto, direi Andrea Romano, che è l'etichetta, cioè il proprietario dell'etichetta Pentar, che mi ha dato la possibilità di pubblicare questo CD, che è anche un cantautore, quindi mi ha dato alcuni pezzi che sono all'interno di questo lavoro, che ho cantato veramente con passione, perché tra l'altro questo lavoro è cantautorale, ci tengo a dirlo, quindi anch'io partecipo come cantautrice, esco come cantautrice, ma collaborando con dei cantautori appunto ad alti livelli. Andrea Romano è stato uno di questi e mi ha fatto davvero, come tutti gli altri, un grande regalo. Tra l'altro è stato qui anche lui, è passato, sì, di infatti, qua, ha fatto lo il suo live. È un grande, davvero un grande. E la cosa fantastica che ho cercato di vestire tutti i brani che mi hanno, tra virgolette, regalato. Come sei riuscita a vestire questi brani fatti dai cantautori, dai tuoi amici che hanno voluto scrivere i pezzi per te? Ma probabilmente entrando nella loro emozione, in quello che riuscivano a regalarmi nel momento in cui ascoltavo il brano, cercavo di medesimarmi, perché ognuno ha portato la propria personalità, la propria intimità. E devo dire che mi ha veramente arricchito molto questa cosa. Ho capito. Mi ha messo un po' in gioco anche. E Paolo, cosa ha fatto Paolo per gestire lui questo? Niente, quella, non fa mai niente. Non fa mai niente. Per gestire il discorso del cantautorato, i pezzi che hanno scritto per te, e tu hai partecipato come autrice. Chiaramente lui ha fatto da tramite, portandomi questi contatti, come adesso li cito tutti, così almeno. È giusto citarli sembra, tutti. Oltre che Andrea. Massimo Lessi, che ha scritto un pezzo bellissimo, due pezzi, di cui uno che abbiamo citato, che abbiamo trasmesso consecutivamente, che secondo noi era di un certo livello. Esattamente. E Confini. E lui è un amico da parecchi anni, ho collaborato con lui anche in studio. Scusate, avrò bisogno un po' di acqua dopo. Sì, beh, certo, è a disposizione. Ce l'ho. Ecco. Ogni tanto mi incricco anch'io. No, beh, lui è un mio carissimo amico, una persona che comunque conoscevo da tempo, e sono riuscita a vestire i suoi brani perché già li conoscevo e mi hanno sempre emozionato molto. Lui ha veramente tanto da dire. E come Omar Pedrini è stato per me una grandissima conoscenza, è da 2 anni circa che ci conosciamo, ha voluto tramite sempre Paolo partecipare anche lui a questo lavoro e mi ha dato questi 2 pezzi che già contenuti in album precedenti suoi, esatto, sì. E quindi sono comunque cover ma rivisitate, riarrangiate, e devo dire che anche questi mi hanno veramente emozionato dalla prima volta che li ho sentiti. Esce appunto un lavoro mio che è cantautorale, e quindi esco come cantautrice con 2 pezzi che sono quelli più pazzarelli dell'album, sono Tic Tac e Marijuana Jazz. Ma più di un di pazzarelli, io dico un divertissement. Tic Tac è un divertissement, un sì, modo, esatto, per ironizzare anche musicalmente, non è? Esatto, ma anche perché credo che vada a vestire un po' tutti. Sì, esattamente. La sveglia la mattina è traumatica, quindi credo che chi ha voglia di svegliarsi la mattina, nessuno. E quindi ho pensato. E quindi ho pensato, perché no? Perché non cercare di scriverlo e farlo e cantarlo. Anche musicalmente è interessante, secondo me, molto accattivante. Cosa dici, sì, Paolo? È molto ricca diciamo, sì, colpi di scena. Esatto, ecco, esatto. Infatti, poi è stato un brano che è stato scelto nella versione remix proprio per fare il primo video di Gilda, che hai chiamato anche degli attori, non sei tu ma c'è soprattutto un'altra ragazza che, esatto, sì, c'è la Valentina, la grande Apostoli. Valentina Apostoli, e anche Vito, ci sono i fuochi d'artificio, Angelo Izzo. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho non fatta. Era l'acqua, era la vodka quella lì. Pagato bottiglia. Esatto. Ma come mai, Paolo? Ma cosa mi avete dato davvero? Paolo, volevo chiederti come mai questa scelta di mettere questa canzone in 2 versioni, cioè una in versione jazz e l'altra in versione remix. Ma è nata anche questa, così, parlandone in studio con i vari musicisti. Questo era il brano. Quando fai un disco, poi devi sempre scegliere, dice, qual sarà il primo singolo. Esattamente. Allora dice, va, questa sì, questa no, questa sì, questa no. Alla fine la papabile è venuta fuori questa, anche perché comunque era quella che si prestava meglio da un punto di vista radiofonico, e quindi ne abbiamo creato una seconda versione proprio pensandola un po' proprio per l'ascolto radio. E poi anche perché è il brano che ha scritto Gilda, e quindi ci pareva la cosa più giusto, interessante, doveroso uscire con una, certo, canzone scritta da lei. Quindi sono messo una mano sul cuore, ha detto, ma sì, facciamola uscire così. Esatto. Io vorrei subito renderti, sì, onore, e ti facciamo ascoltare la tua canzone. Cosa dici? Grazie, volentieri. Però l'ascoltiamo nella versione quella jazz, diciamo. È una scelta tua, Ok. Allora, da amorevolmente, la traccia numero 4 si chiama Tic Tac. Solamente, non c'è il tocco, vero? Tic Tac. Tic Tac. Ed è in versione jazz. Sono testa e mi serve un buon pretesto per svegliarmi. Tutti i giorni quel rumore che ammassila d'ore d'ore non mi fa dormire. Mi attorciglio nel cuscino con un dito nell'orecchio, che tormento. Ma poi rotolo di sotto, mamma mia che grande botto. Ai! Quanto mi fa male. Apro gli occhi piano piano e chi fa quel gran baccano è la sveglia. Sono le 7 di mattina e quell'ora si avvicina, l'ora di svegliarsi. Sente la mia mente così lontana. Ma che morbido tappeto, io da lì non torno indietro e richiudo gli occhi. Sento un quanto dream, suona la sveglia, quella maledetta, maledetta sveglia. Sento l'ansia che Radio Sera. Blu Radio Sera. A chi l'hai rubata questa sveglia? Dovete sapere che in un lato oscuro della mia vita lavoravo. Devo dire che nel video la sveglia è di mio figlio. Esatto, di Winnie the Pooh. Di Winnie the Pooh. Saluto Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Che da parte nostra, da parte di Blu Radio Veneto. Una vera e sì. Proprio cascata di swing, abbiamo scritto nella recensione. Esatto, esatto, perché effettivamente... Ecco, è arrivato Kenneth. Oh, è arrivato. Grandioso. È arrivato. Sta baciando. Un incontro in diretta questo, eccola qua. Ciao Kenneth, ciao ciao. Grande. Allora, no, appunto dicevo... Una cascata di swing, noi l'abbiamo esatto, sentita perché, così. Mm. Esatto, perché, bisogna sapere che dimmi. Questo CD ha un filo conduttore che è il jazz. Sì, esattamente. Che va poi a collegare diversi altri generi, quindi va a unirsi a diversi altri generi. Mm. Quindi non potevamo scostarci, ok? Però dovevamo comunque differenziarci. Quindi riuscire comunque a seguire questo filo conduttore cercando di dare la novità di ogni pezzo, quindi la diversità di ogni pezzo, ma mai scostandoci da questo genere. Quindi praticamente, se ho capito bene, cioè il centro è il jazz e poi ci sono esatto. tutte le diramazioni esatto. collegate. Ci sono delle contaminazioni, certo. Esatto. Benissimo. E quindi insomma abbiamo pensato di fare proprio le due versioni, sia quella diciamo più funky, diciamo così, che quella la versione più acustica, perché comunque la prima versione è stata proprio così e quindi è nata questa. Quindi, poi abbiamo pensato di ricreare un'altra atmosfera che era più radiofonica. Perché diciamo. Il jazz è il centro dell'universo musicale tuo? Perché il jazz è il centro del mio mondo musicale, quindi è un amore che ho da tempo e diciamo è il genere che mi veste di più. Che sento di più mio. Ma tu sei interprete a 360 gradi, non solo jazz, fai un po' di tutto. Sì, se diciamo vuoi. Che diciamo che mi sento comunque una cantante abbastanza versatile. Certo. Mi piace poi mi piace mettermi in gioco, quindi mi piace spaziare dal pop al jazz alla musica leggera, chi più ne ha più ne metta. Ma è sempre così una scommessa un po' con te stessa. Poi chiaramente hai un amore particolare o comunque hai il genere che ti piace di quindi più. Quindi la venatura c'è sempre, una certa venatura sì. jazz esiste, esatto. anche se più o meno approfondita, più o meno pesante nel senso positivo, ma esiste esatto. quello. Ma anche perché sai benissimo che il jazz non arriva a tutti, quindi bisogna sempre cercare di un attimo... Paolo ha guardato un momento... Luca ha detto sì è vero, è così, è proprio così. Cosa dici Luca? Non sai. Innanzitutto Paolo ha sempre ragione. Ah, perfetto. a prescindere ha sempre ragione, a prescindere. Tra l'altro Paolo è un nostro collega, lo sai? Sì, lo so. È un nostro collega di Radio Vera. È un collega dal 1976. Sì, Paolo. Esatto. Quindi, iniziato proprio all'inizio, proprio come quando sono nate veramente. Quando avevo il ciuffo ancora. Quando avevo il ciuffo. Sì. È un ricordo bello anche per me questo. E io non ho avuto il piacere di conoscerlo col ciuffo e veramente fatti mi dispiace. Dare una foto. Saluto tutti gli amici di Brescia, ovviamente. Ecco. Dopo ti diamo anche il microfono, Kenneth. Sì, non ti preoccupare, dopo ti diamo il microfono. Cuffie, diamo tutto. Questa è una grande sorpresa perché Gilda ci regala un live con lui, quella canzone che impazzisco per quella canzone. Non solo tu, anch'io. Mi è piaciuto subito quando Paolo mi ha detto guarda che c'ho questo progetto, mandami giù il disco, eccetera. Io l'ho sentita la prima canzone, ma senti che bella. Poi ho contattato Zio Cantante. Zio Cantante, verissimo, Zio Cantante. Ritornando a questo pezzo, Gilda, c'è un... c'è un contrabbasso pulsante di Massimo Morricone, proprio uno che ti scava dentro praticamente. Esatto, infatti lui è come hai già detto è grandissimo e ha valorizzato molto, come tutti comunque i musicisti che hanno partecipato a questo pezzo, hanno proprio cercato di renderlo, di esagerare. Sì, ecco, hanno cercato ognuno di fare il proprio esagerando. E ci sono riusciti molto bene, perché poi il pezzo deve essere comunque ironico, è anche autoironico, e quindi insomma hanno cercato proprio di renderlo molto leggero e nello stesso tempo allegro, ecco. E doveva aprire l'album, come giustamente ha detto Paolo. Doveva aprire l'album. Rompere il ghiaccio, come si dice. E voglio appunto ricordare anche chi ha suonato all'interno di questo pezzo, come un ospite molto, molto bravo, che è Mauro Ottolini, che ha suonato i fiati. E si sentivano. Si sentivano. Infatti, questo trombone, giusto? Un trombone Luca, ecco. Sì. Non so, mi spiegano qua. Sbaglio qualcosa. No, questo trombone è molto così giocoso, che fa un po' le veci della sveglia, che prende in giro me. Ok, che non ce la faccio più, e lui continua, invece io penso di aver spento la sveglia, invece lui continua e dice no cara mia, ti ho fregato, ti devi alzare e muovere, che devi andare a lavorare. E quindi insomma così. E poi insomma anche musicisti, gli altri musicisti che hanno comunque suonato tutto il CD, e sono Sandro Gibellini alla chitarra e Ella De Bandini, il grande Ella De Bandini, alla batteria. Senti. Ah, fermo. Un grande veneto. Ho dimenticato il grande veneto. Lo facciamo per ultimo perché è il più importante. Esatto, è Michele Bonivento, che è anche produttore comunque artistico con Paolo Salvarani e arrangiatore dei pezzi e anche musicista. Ha suonato il piano e anche l'organo Hammond. Certo. Sono stata brava, Luca, ho detto organo Hammond. Grazie. Senti, Gilda. Hammond B3. Amorevolmente. Ci canti una canzone? Amorevolmente, sì. Cosa ci canti? Ma io volevo innanzitutto far accomodare un attimo Kenneth, perché Kenneth poi canteremo insieme, però magari la facciamo in secondo momento. Io pensavo di cantare un pezzo di Massimo Alessi, sì, che è Confini. Confini è un brano che parla dell'universo e viene veramente descritto con grande poesia. E vi invito davvero ad ascoltarlo con attenzione, perché veramente è pura poesia. E facciamo fare un saluto a Kenneth. Vai, Kenneth. Assolutamente sì. Olà. Olà. Cioè, già olà vi dice tutto. Cioè, io voglio dire, sì, non ho capito. Parliamo in spagnolo. Allora, quando parlare. Luca è pronto, tu, Gilda, sei pronta. Senti. Allora penso che ci siamo, possiamo prepararci. Allora ci ascoltiamo la canzone che si chiama Confini di Massimo Alessi. Nell'immenso c'è la luna che delimita i confini di altri mondi sconosciuti, i nostri destini. Solitari, avvolti nel mistero, le astre celesti si lasciano scrutare da giganti telescopi pronti a svelare. Nuove energie che salveranno il mondo e quelle luci così razzanti e belle verseranno lacrime a forma di scintille. Noi che siamo qui, popoli del mondo, liberi e importanti, sospesi fra diamanti che brillano nel cielo. E finalmente vedo un segno di speranza nell'alba che avanza. Nell'immenso c'è il sole che illumina i pianeti, abbracciando coi suoi raggi i luoghi più segreti. E il suo calore così sgargiante e intenso fa risaltare le immagini e i colori di ogni cosa custodita negli arbori. È l'energia che alimenta il mondo, con la sua forza sprigiona le stagioni, dando vita senza sosta a tutte le azioni. Noi siamo qui, popoli del mondo, liberi e importanti, sospesi fra diamanti che brillano nel cielo. E finalmente credo, è un segno di speranza, un ritmo che non stanca. Tutto è possibile senza confini né catene. Così è la vita e le sue creature. Noi siamo qui. opulenti del mondo, liberi e importanti, fra quei diamanti santi che brillano nel cielo. E un altro giorno prego, sia un segno di speranza, questa eterna danza. Che meraviglia, che dolcezza. Grazie. Brava Gilda. Da applausi proprio, insomma, questa. Bellissimo. Splendida, splendida, bravissima. Grazie, grazie. Sempre emozionante, mamma mia. Parla vicino al microfono, Kenneth. Kenneth. Yeah. Vai, vai. Infatti, popolo. No, era agenda dimenticata per una seconda radio. Sì, questo brano confine è molto... quando dici qualcosa del libro, veri che non leggo tanto. Questo è un discorso di confini. Esatto. Veramente poesia. Non so, mi viene diverse cose in mente come immagine. Irish Shoot bene da. E poi grande pathos, hai sentito che l'interpretazione ha dato, con molto pathos, con molto trasporto praticamente. Non può essere che così, perché comunque questa canzone è... ha veramente è stata scritta veramente con grande sentimento, con davvero, come dicevo prima, è veramente poesia, perché non si poteva scrivere meglio e descrivere meglio l'universo e tutto ciò che è di bello che ci dà. E quindi, quando Massimo ti ha dato questo pezzo, cosa hai detto? Quando ti ha presentato, ma io questo lo vorrei pezzo, così. Allora, ti dirò, questo pezzo è all'interno di un suo CD, già comunque... Sì. Dea, hai sentito. Eh? Dea è il titolo di Massimo, del CD di Massimo. Ah, Dea, certo, sì. No, scusa, non avevo capito. Si mette a parlare inglese questo qua. Esatto, di Dea. E già avevo partecipato in questo CD come corista. Era sempre stato uno dei pezzi che io preferivo. Quindi quando mi ha detto Paolo, sarebbe bello che tu cantassi questo pezzo perché io lo sento molto su di te, ho detto guarda, è uno dei regali più belli che mi fai, perché io lo adoro questo pezzo, è davvero poesia. Quindi... E tu la canti splendidamente. Grazie. Perché ti sei proprio addentrata, se si esatto. può dire così, nella canzone. Ma infatti è stata una cosa che comunque, non solo per questo pezzo, ma con tutti, davvero sono entrata veramente nella parte come se fossero miei. Kenneth, volevi dire qualcosa? Questa è la frase. Hai trovata? Noi siamo qui, popoli del mondo, libri e importanti, sospesi fra diamanti che brillano nel cielo e finalmente credo. Quello lì è proprio... Io ho pensato che stavi dicendo proprio libri, come... E nel senso posso leggere anche così, non so, le storie che sono sospese lì. È proprio... Sì, basta. Si emoziona. No, beh, comunque è una frase molto significativa quella che tu hai citato, quindi sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Siamo veramente tutti puntini sospesi fra tanti altri puntini, quindi credo, e tutti uguali, e quindi è la cosa bella questa. Sì, tutta non, io non darò tutti uguali, tutta con le uguali importanza, perché se esatto, sposti, sì, intendevo proprio. Sposti forse quelle cose che si sente sempre nel film, dico il film perché così sento come un grande qualcosa, se sposti una di quelle cose tutto cadrà. No, è proprio così, l'individuale, le persone che meno scontate, meno quelle che sono scontate, certo, forse a volte sono quelle più importanti. Esatto. Sì. Alle volte le cose più banali, cioè non banali, perché comunque sei contornata da cose bellissime che non ti accorgi mai di vedere, perché sei abituata a vederle, però se ti fermi un attimo e ti guardi intorno, sono le cose più belle della vita. Sì, quindi certo. E così. Vabbè, insomma, abbiamo scoperto la vena poetica di Gilda, che comunque l'avevo già capito prima, se mi permetti. Io sono molto così, sono molto emotiva. Sì, e poi tu hai una e poi tu hai una caratteristica che mi piace tanto, Gilda, te la posso dire con il cuore, guarda. Sì. Sei molto ma molto umile. Grazie. Grazie davvero. Io ti ho conosciuto in questo tempo, da novembre che ci conosciamo più o meno, quando è che mi hai dato il disco? Sì, il fine novembre, sì, era, esatto, che ci siamo sentiti, fino adesso, insomma, che quelle volte ci siamo sentiti al telefono, mi hai sempre dato questa immagine, questa, grazie, impressione, insomma, sei veramente una persona squisita. Basta che poi ci credo. Sì, facciamo un po' di break, così se vuoi prepararti con Kenneth per farci questo regalo. Sei già accaldata? Già sto sudando, ragazzi, io devo bere, datemi veramente la grappa adesso perché ne ho bisogno. Allora, Paolo, hai selezionato un'altra canzone, la traccia 2. Sì, Senza te. Diciamo... Beh, Senza te è innanzitutto uno degli inediti del CD, esatto, insieme ai miei due. Perché non è mai stato pubblicato. Mai. Esatto. È di un grande, che è Alberto Boldrini, e credo che dica tutto così. No, parla no, scherzo. Parla di Marilyn, quindi A qualcuno piace caldo, è un film che è stato fatto anni fa, negli anni... Some Like It Hot. Esatto, sì, vabbè, io l'ho detto in italiano, sì, Paolo. Vabbè, ma se mi metto a parlare in inglese con Kenneth vicino, cioè, perde la grande considerazione che ha di me, quindi non fanno parlare diverso. Inglese. Esatto. Hot nel senso che non è 9, è hot. ecco, c'erano un senso inglese. Esatto. Allora, prima di ascoltare la canzone, sì, ti porto i saluti dalla Toscana. Marisa ci sta ascoltando. Oh, grazie, ciao Marisa, grazie mille per essere all'ascolto. Grazie. Un bacione grande, grande. Un bacio. Un'altra splendida persona, un'altra persona umile. Se ti capita di andare in qualche agriturismo, dimmelo che ti faccio andare da lei. Assolutamente, magari per quest'estate posso farci un pensierino. Sì, sì. Allora, ci ascoltiamo Senza te da Amorevolmente. Lei è Gilda Regenzi. Grazie. Boston, this sound like it hot. E guardo l'orologio, è sempre un'ora in più. Che storia solitaria, qui ci vorresti tu. Se ti avessi qui, se potessi qui, se tu fossi qui ma non ci sei, allora penso alla tua faccia che ride da cent'anni e non parla mai. Come fai? Ma dimmi come fai tu. Senza te, a qualcuno piace caldo anche a me, però dimmi come faccio senza te. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:38, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara vi sta regalando questa serata simpaticissima. Poi quando arriva Kenneth c'è sempre quel vena di allegria. Ma comunque no, abbiamo... No, Kenneth, non si guarda nel microfono, si parla. Okay. Sì, una bella foto, va. E comunque vi stiamo regalando Gilda Regenzi con questo Amorevolmente, che è un disco bellissimo, come vi ho sempre ampiamente detto, questa serata fino alle 22:30 dal vivo, un po' dal vivo, un po' dal disco, insomma cerchiamo di scoprire questa artista che sta veramente spopolando, posso dirlo? Urca! Spero di sì, caspita! No, so che fai un sacco di concerti anche con Omar Perdrini. Sì, sì, sto accompagnando Omar da circa un anno nei suoi live, grazie. No, mi ha dato questa possibilità perché comunque fa parte anche lui del mio CD e mi ha dato l'opportunità appunto di presentarlo nei suoi live, oltre che comunque fargli il coro da in qualche brano suo scritto da lui appunto. E quindi insomma grandissima esperienza, devo dire grande crescita anche per me, quindi molto importante. Il live è fondamentale per te, suonare dal vivo, assolutamente. Qualsiasi componente bisogna suonare dal vivo. Assolutamente, sì. Esattamente. Sì, sì, tu sì, ne sì. fai moltissimo. È emozionante. Come ti proponi nei live? Dunque, in diversi modi, perché sempre dipende da perché mi chiamano e cosa vogliono e tutto il resto. Quindi tornando diciamo a collegarsi alla versatilità che tu prima mi dicevi, esatto. Anche se prediligo magari le serate un po' più soft jazz, queste cose, però cerco appunto di spaziare in base alla situazione, quindi vado da i brani italiani ai pezzi standard jazz, dipende insomma dalle occasioni. Quindi. Ho capito. Bene. Devo aggiungere una cosa, scusate, se mi intrometto, i musicisti che hanno suonato in questo pezzo, oltre alla band già citata, c'è Davide Foroni al vibrafono. Esatto. E grande amico Giuliano Moratori anche alla lui altrettanto poi c'è un signore che canta ma passava di lì ma un certo Kenneth ma come l'avete scoperto Kenneth? Beh, tramite Michele Bonivento e comunque la conoscenza era anche di Paolo, quindi infatti ad Isola d'Elba esatto. Suonando con il nostro trio e li ho conosciuti lì infatti ho detto questi ragazzacci mi sa che le note le brincano allora... ma eravamo a cantare in un locale in Inghilterra e... e così e quindi insomma è nata questa collaborazione grandiosa devo dire. Sei contenta di rivederlo vedo. Puoi dire sì parla vicino al microfono è la prima volta che in studio è stata che abbiamo sentito la prima volta che abbiamo fatto qualcosa insieme esatto comunque come hai detto l'ultima volta le vibrazioni che ha preso di quel momento è stato secondo me anche un spuntino di magica, dirò. Un pezzettino che ha dato il giusto combustione per quello che è dovuto fare, perché ovviamente ho cercato sentendo la sua voce da aggiustare il timbro, proprio avere il giusto parole, il ritmo, proprio quasi coccolare, perché secondo me una cosa che è molto difficile avendo un duet con una donna. Yeah, è quella non da consumare spazio è quasi un reporto certo no? Andando senza essere invadente nei confronti comunque di chi cantava il pezzo infatti hai fatto un grande lavoro con le donne è molto più è sensibile queste cose certo magari come uomini siamo molto più ok non penso così ma non ho pensato ma io adesso voglio aggiungere un piccolo aneddoto nel senso che Gilda l'ha già detto prima parlando dei musicisti questo è un disco suonato e pensato per essere live anche in studio quindi non ci sono sovraincisioni hanno suonato non dico buona la prima perché abbiamo fatto diversi take e poi abbiamo scelto ovviamente i migliori. Al Mac Wave l'hai fatto, vero? Al Mac Wave Studio di Paolo Brescia. Costola a Brescia, che salutiamo e ringraziamo sempre. Sì, Paolo, grande Paolo Costola. È un quarto, quinto componente della band. Sì. E, anche perché diciamo una cosa, che questo CD ha unito una famiglia. Infatti, quindi ha creato una famiglia grandissima, perché tutte queste persone che comunque hanno lavorato all'interno di questo lavoro, ok, si vogliono bene. È per questo che comunque è stato chiamato, abbiamo scelto Amorevolmente, perché è stato fatto veramente con amore. Si vede comunque, si sente anche da questa trasmissione, esatto, che state facendo questa tutti sera. Ci tengono, sì. Comunque Luca mi stava prendendo in giro, ma voglio sentire Luca, cosa ha detto. Stavamo dicendo appunto, quindi è stato registrato in questo modo e anche Gilda ha cantato insieme ai musicisti e dopo è arrivato Ken, è entrato subito nell'armonia del lavoro. E l'aneddoto qual è? L'aneddoto è che Ken, per chi non lo sapesse, ma magari non frequenta i studi di registrazione, non è un cantante un po' atipico, nel senso che notoriamente i cantanti quando registrano a pezzi, fanno un pezzo, poi l'altro, poi ripetono il pezzo finché non gli viene bene, poi si aggiusta, si sistema. Ken non fa così. Ken canta la canzone dall'inizio alla fine. Ah, perfetto. Sì. Ed è quasi sempre buona la prima. Ne fa poi una seconda, tanto per dire, vabbè, ce l'abbiamo di riserva. Però ecco, questo è Ken. Ecco, volevo solo raccontare questa cosa. Senti, lo vogliamo sentire questa voce? Io sto fremendo dalla... L'avrò ascoltata 50.000 volte questa canzone, però dal vivo non l'ho mai sentita. Io... Neanche io. Beh, è bello della diretta, voglio dire. È bello della diretta. Yeah. Ce la fate allora questa canzone? Ma dai, ci proviamo. Dai. Allora, intanto chi è l'autore, Paolo, finché loro si sistemano, di Dimmi? Paolo, mi senti? Scusami, ho cambiato le cuffie. Ah, chiedo scusa. Ero passato al mixer. Dimmi. Dall'autore, dicevo, di questa canzone, Dimmi. L'autore è Andrea Romano. Andrea Romano. Amico, discografico, talent scout, fa un po' tutto. Sì. Pittore, artista a 360 gradi. Uh-huh. Tanto nel disco ci sono alcuni suoi quadri. Uh-huh. Per chi volesse poi andarli a vedere, può anche andare sul suo sito e lì ce n'è un'ampia collezione. Cito due siti, www.andrearomano.it e pentalmusic.it, che sono quelli dell'etichetta. E poi c'è anche il sito di Gilda, che è www.gildaregenzi.it. E niente, questa è una canzone di Andrea che era inserita nel suo secondo album e, con un arrangiamento ovviamente completamente diverso e che Michele Bonivento ha completamente stravolto e l'ha resa quella che poi adesso andiamo a sentire, insomma. Ecco, un consiglio che do ai nostri ascoltatori: non cambiate canale, state lì perché adesso è veramente emozione pura. Quante sono le cose che non si vedono in un uomo, come il cielo tra una folla e l'altra, quando la notte sullo sfondo ride e canta. Certe cose non son da dire, se lo so potrai forse capire, meglio stare sul banale, canto qui una frase commerciale, dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu se c'è un posto per odiarti almeno, e dimmi se è vero che esisti, dimmi tu, se sono un diavolo e mi tenti. Can you see through the color of man's eyes to see his heart's intention? Lie that you has a view and the qualities of spring, but the sun after dawn changes everything. Oh. Certe cose non son da dire, se lo so, potrai forse capire, meglio stare sul banale. Ricanto qui quella frase commerciale. So tell me, is there a way I can love you more? Is there a place I can hide my love from you? Give me one more reason I should suffer more. Give me the reason to let my love look out the door. Quante sono le cose che Questo progetto è un sogno nel cassetto che finalmente sono riuscita a concretizzare con l'aiuto dei miei produttori e di alcune persone speciali. Ho avuto la fortuna di incontrare amici, cantautori di spiccata sensibilità, che hanno saputo individuare le canzoni nel loro vasto repertorio, che mi potessero vestire perfettamente. Per questo mi sento di condividere la mia gioia e il mio sogno con le persone che sono state e sono tuttora partecipi di questa fantastica avventura musicale. La speranza è che questa nostra grande emozione possa arrivare al cuore di tutti voi. Amorevolmente, Gilda Reghezzi. Parole tue. Aspetta che mi riprendo. Sì, perché anch'io. Perché non lo sapevate, ma io un secondo fa ero in terra, svenuta. Sì? Sì, poi mi hanno buttato che un emozione. Secchio d'acqua in testa. E poi me l'ha rifatto. Sì, sì. Hai fatto emozionare tutti quanti, mamma decisamente. Mia. Anche che la Martina ce l'ascolto, ha emozionato. Sicuramente ha emozionato anche la Martina. Voi veramente, no, no, non ci crederete, ma io ho il cuore che va a non è 1000, 3000. Perché io ogni volta che canto mi emoziono, poi insieme a lui, mamma mia. È la prima volta che l'ha fatta dal vivo questa? Sì, sì, ah. Sì, sì, sì. E devo dire che ce ne saranno tante altre. È molto presto. Ma gli ascoltatori non lo sanno, non perché non ci sono le telecamere, ma prima di iniziare, qualche secondo prima di iniziare, hanno dato il là a Luca e poi via, è partito esatto. Proprio il contorno e via, il pezzo è andato. Esatto. Luca è stato fondamentale, però ti ha dato i tempi giusti. Infatti, c'è poco da sì, fare. Sì, devo dire che Luca è un grande pianista e oltre che un grandissimo amico, io li voglio non bene di più. E grazie. Quindi ogni volta che suoniamo insieme riesce a regalarmi veramente questa amicizia, questo bene che c'è tra di noi, e è fondamentale. Io lo cerco quando canto con le persone, i musicisti, io voglio questo. Deve amalgamarsi tutto ciò che ecco si sente reciprocamente. Ecco perché mi piaci. Perché sei così, hai la passione, l'emozione, ti lasci trasportare. Dimmi, Kenneth. C'era una signora che è venuta su un programma su TV, praticamente lei diceva se Non invita le persone a casa per cena se non ti piace. Basta. È vero. Invasione barbarica. Barbara. Yeah, invasione barbaria, invasione barbarica, invasione barbarica. Ma è giusto, è giusto così. Bisogna essere sinceri innanzitutto e chiari, nel senso che è inutile circondarsi di persone che non sono vere. Bisogna averle poche ma buone, dico sempre così. E io ne ho poche ma buone. Tiente alle strette anche. Ma non, non hai poche, ne ha tante, perché conosci un sacco di gente. Il disco è fatto da un sacco di gente. Quello sì. Quello è importante. Siamo in tanti sulla Terra, quindi per sì, me. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. No, mi scherzo. Dobbiamo dire che l'adattamento del testo in inglese è proprio dello stesso Ken. Ah, bene, sì, bene. Devo bene. Dire che hai tutti questi meriti. E pensa che non voleva neanche venire questa sera, ma no, è la trasmissione quella di Gilda. No. Sicuramente volevo essere qua. Certo. Come tutti c'è qualcosa noi, che musicisti, abbiamo ho avuto un po' di lavoro da mandare avanti e seriamente con lavoro. Sì, infatti no, lo ringrazio davvero di essere qua, perché è un piacere di essere qui. Grazie, capisco dire. Comunque tanti tuoi impegni e davvero sono molto felice di vederti. Non è stato come l'ultima volta, perché non ho capito. Ha bloccato la casa proprio con neve. È vero, vero, caspita, mamma mia, ha nevicato tantissimo e per arrivare qui ci voleva la slitta. Babbo Natale non era disponibile, allora... Lui ha preso il tuo posto, ha fatto la trasmissione. Esatto. Magari mi facevi venire... Grazie. Lui aveva la slitta, io sì. No. Magari mi facevi un infarto se ti capitava qui senza saperlo. Quasi. Era fatta bene comunque la sorpresa, vero? Direi proprio di sì. Vabbè, insomma, è andata come ce l'hai qui questa sera, hai visto? Infatti adesso prima che lo molli. Senti, non Gilda, va a casa facilmente. vuoi riposarti ancora, facciamo ascoltare qualcosa dal disco o vuoi cantare ancora dal vivo? Scegli tu. Ma disco, dai, dire. Che così almeno disco. Vai con la disco. Ci ascoltiamo la traccia 9, Paolo o Gilda, diteci qualcosa. Marijuana, la traccia jazz. 9 Marijuana Jazz. Quello interessante, perché citi Jerry Mulligan e io voglio sapere il perché citi Jerry Mulligan, un mostro sacro. Ecco, non potevi farmi un'altra domanda. Cioè, di tutto quello che c'è scritto qua, non so perché la droga. No, Jerry Mulligan. Jerry Mulligan è un pilastro del jazz, quindi non potevo non citarlo. Sono stata brava, Paolo. Grazie. E quindi non potevo non citarlo, come gli altri. Certo. E quindi però ho cercato appunto di... Adesso parliamo del pezzo così. Chiaro. No, questo pezzo ti dirò che è nato così scherzando e invece è uscito qualcosa di davvero simpatico. Lo dico perché l'ho scritto io, quindi non potrei dire che non lo è. No, è un inno, diciamo, a drogarsi di musica. Questo è importante. Non drogarsi di schifezze, ma a drogarsi di musica, perché la musica è il vero sballo, non è tutto il resto. E poi c'è sempre il contrabbasso di Massimo Morricone. Sì. Come un contrabbasso che è ancora più forte rispetto al pezzo precedente. Infatti, se ci fai caso, tutti e due i miei pezzi, lui c'è proprio perché sdrammatizza. Chiaro. Okay. Lui, oltre che essere bravo, però riesce a dargli quella cosa in più che rende... piacevole e simpatico il pezzo, perché poi il contrabbasso in queste versioni è simpatico alla fine, da questo così, questo invito anche ad ascoltare, dici insomma che sta arrivando adesso, cos'è? E quindi insomma l'ascoltiamo. Marijuana Jazz. 1, 2, 3, 4. Quando un po' di musica ti vuoi fumare, prendi uno strumento e comincia a suonare. La musica più nera che si chiama jazz è marijuana pure, vero, credi a me. Ti leggi su quel libro cosa vuoi bruciare, c'è Becker, Jerry Mulligan, ti lasci andare. In quella riga di canzoni e musica drogata tira un po' di swing e vai in estasi. Senti un po' che roba fa uscire da lì. Sono le tue dita che mi fanno morire. Le note volano come se fossero magia. I brividi si si alzano sulla pelle mia. Mi sento il battito del cuore sollevar, i piedi vanno da soli, non li posso fermare. Dio, che meraviglia questa musica qui, non ti puoi sbagliare, questo si chiama swing. Magia, i brividi si alzano sulla pelle mia, mi sento il battito del cuore solo elevare, i piedi vanno da soli e non li posso fermare. Dio, che meraviglia questa musica qui, non ti puoi sbagliare, questo si chiama swing. Blu Radio, SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Agostino Splore e Maurizio Calzavara per regalarvi, come dicevo qualche tempo fa, insomma anche questa sera ve lo dico, una splendida artista, Gilda Regenzi, con il suo Amorevolmente. Ci siamo ascoltati un po' di cose dal vivo, un po' di cose dal disco. Esatto. E ci siamo ascoltati lei. Esatto. Cosa dovevi chiedere, Maurizio? No, dovevo chiedere a Paolo. Prima voglio dire una cosa. Vai, vai, Paolo. Sai, il produttore poi deve sempre mettere i puntini sulle i. È giusto. Mi pare giusto. Perché lei... No, cancello le canzoni che sono andate in onda. Lui è preciso così. Lui è preciso così, non c'è niente da fare. Allora, siccome abbiamo citato dei grandi del jazz mondiale... Certo. E abbiamo citato anche un italiano che... appunto Massimo Morricone al contrabbasso, ma noi dobbiamo citare la chitarra jazz per eccellenza, che è la numero uno che c'è in Italia, che è Sandro Gibellini. Certo. E qui appunto si è dilettato in uno dei suoi soli, e devo dire un caro amico, però comunque ha partecipato a questa a questo progetto con grande entusiasmo, e dobbiamo dire che quando ne parlavamo con Michele in fase di struttura di tutto il progetto, ho detto: sai Michele, io avrei pensato di far venire Sandro, perché Michele mi guarda e fa: ma Sandro non è un musicista, è il jazz in persona. questo è quello che ha detto appunto Michele, per cui niente, gli è dovuto, perché Sandro Gibellini, un bacio a Sandro, è veramente uno dei grandi della musica italiana. Poi sì, ha suonato di tutto, adesso abbiamo detto jazz, certo, ma Sandro suona un po' di tutto, chiaramente qualsiasi cosa, tranne l'heavy metal, ma quello non ce lo vedrei con la cresta, esatto, e il giubbino di pelle. Non ce lo vedrei. No, la domanda che dovevo fare a Paolo è: c'è stata difficoltà nella tracklist nel fare questo? Ma neanche tanto, se lo dite la verità, abbiamo già le idee abbastanza chiare, sì. E quindi abbiamo fatto una scelta tra una ventina di canzoni e poi appunto ne abbiamo scelte 11 ecco. Sì, scremate quelle giuste, quindi è già in programmazione il secondo CD? Nella sua mente sì, lui non me lo dice, ma quando lui io continua, sto finendo lui... un progetto, ne ho già in lavorazione un altro. Il problema è che poi bisogna trovare anche i fondi, cioè insomma non è così semplice, certo, al giorno d'oggi, soprattutto. E quindi intanto questo l'abbiamo portato a casa grazie anche, esatto, all'aiuto di amici sponsor e anche di amici non sponsor che hanno creduto in questo progetto, certo, come Giovanni Ranzanici, che è il produttore esecutivo. Questo lo volevo dire io, però Paolo. Io puoi ridire, però appunto, però... diceva Paolo che è uno dei nostri, diciamo, più le collaborazioni più grandi che abbiamo avuto, e soprattutto che ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto. Di Giovanni Ranzanici. Ma voi mi dovete far parlare poco perché siccome sono un radiofonico anch'io, quando mi si apre il microfono poi mi si accende la lampadina. È il nostro difetto, vero? E allora chiudetemelo. No, volevo chiederti, Gilda, come lo fai un pezzo, questo pezzo dal vivo assieme alla band con Luca e gli altri componenti, Marijuana, questo pezzo proprio questo, se lo fai così bene. Così identico, così. Deve essere band, nato allora. Così, sì, infatti purtroppo e non purtroppo, perché comunque i musicisti che hanno comunque suonato nel CD non hanno potuto seguirmi, chiaro, per forza di cose, però ne ho trovati altrettanti bravi. E uno è con noi, è appunto Luca Rossi, che saluto. Poi, guarda che dobbiamo tornare insieme a Brescia. Lo so. Ciao. Lui è di poche parole, ma quando parla dice l'essenziale, ma quando lo dice è anche in ritardo. Ecco, vedi, voi dovete pensare che l'atmosfera di ogni volta che noi ci troviamo è questa. È questa. Ecco, quando facciamo le prove, un'ora a ridere e 5 minuti a provare. Perché poi Luca è anche molto bravo a raccontare le barzellette. Ah. Non le diciamo perché tutte quelle che sa sono sporche. Sono tutte però... sporche, non possiamo. Però, caspita, arrivi a sera che non ti fa male, non ti fanno male la mandibola, non ti fa male la mandibola perché canti, ma perché ridi. Quindi sì. Credo che sia spettacolare questo. Comunque, no, dicevo, volevo citare, oltre che Luca Rossi, Simone Boffa alla chitarra, Arcangelo Buelli alla batteria, che è chiamato Archi Buelli, e Roberto Gerlone al basso. Quindi poi ci saranno anche i Jolly, che come Davide Foroni, che comunque ha partecipato in Senza Te, al vibrafono, ma è un grande pianista comunque anche lui, quindi ci saranno sempre degli ospiti sicuramente. Anche Anna Di Lena ci chiama. E beh, chiaramente Anna Di Lena, che ai cori, che infatti è stata molto brava sia nel CD, e poi spero un proseguimento poi una collaborazione, insomma. Esatto, sì. Gilda, come nascono le tue canzoni? Cioè, proprio quelle che scrivi tu? È di getto. Cioè, sensazioni, è una tua esperienza? Sì, sì, sì. Solitamente sì, anche se devo dire che mi piace molto immedesimarmi in altre, magari, in alcune situazioni che magari sento, penso... Cerco di pensarla nella testa della persona che magari la vive, e poi la vivo io sulla pelle e la scrivo. Però quelle che comunque io ho diciamo pubblicato sono di getto. Mm-hmm. Queste sono proprio sensazioni mie, quindi la fatica della sveglia, cioè di svegliarmi la mattina, e poi Marijuana Jazz, che comunque... Ma può capitare in qualsiasi momento della giornata, insomma. Sì, sì, sì, sì, questa stavo tic tac, stavo lavorando, ho detto, ero talmente incavolata, senza dire di più. Abbiamo perché capito. Quella mattina non volevo alzarmi, dovevo andarci per forza, avevo fatto tardi la sera prima perché ero andata a cantare, ho detto no, non è possibile, ma io anche oggi devo andare a fare questa cosa. E allora lì niente, stavo lavorando e non ho lavorato in quel momento, e ho scritto questa canzone. È passato anche tra l'altro un po' di tempo, ti dirò, e tra l'altro la prima persona che l'ha sentita è stata una mia amica, perché io gliela cantavo, dicevo senti qua, ascolta, intanto che lavoravo, dicevo, e gliela cantavano, ma caspita, magari un giorno chi lo sa la pubblicherai. E infatti è stato così, è così. Che bello così. Perché la scelta, Gilda, abbiamo parlato di cantautori, la scelta del mitico Canfora e di Amurri, anche, quindi un pezzo famoso di perché diciamo che è stato più perché lega un personaggio che è Mina, esatto. Mina è una cantante che amo a 360 gradi, lei è a 360 gradi, riesce a cantare qualsiasi cosa, anche l'uva folgarina è stupenda, sì, quindi io credo che avvicinarsi a lei è stato anche come rimettermi in gioco, come cerco di fare sempre. E ho scelto questo pezzo perché magari conosciuto o non conosciuto, ho cercato un attimo di renderlo più personale, e mitico perché Canfora, insomma, di Studio 1, ovviamente. Esatto, e quindi insomma ho pensato di rallegrare anche, perché comunque i pezzi sono anche abbastanza soft alcuni, sì, quindi cercare di dare una botta di vita al CD. Sì, e allora abbiamo scelto questo pezzo, che è nato proprio anche quello per caso. Quindi. Ma è difficile cantare un pezzo simile almeno questa struttura non è semplice, un pezzo di questo livello. Ma... anche se sembra un pezzo semplice, non è semplice assolutamente, è canzone, una canzone italiana di alto livello. Ma non lo so, a me piaceva. Quando mi piace qualcosa non so se è facile o difficile, io lo canto, e magari può essere difficile per altri più, e magari facile per, ancora chiaro, meglio per altri. Io lo canto, poi se lo canto bene meglio, se lo canto male vedo perché l'ho cantato male, o altrimenti dico non è per me, quindi lo abbandono. Paolo però... ha detto di sì, puoi farlo. Sì. Vai. L'ascoltiamo? Ah, proprio così. L'ascoltiamo? Ah, mi hai stroncato. Agostino, che dici? Grazie. Dimmi tu se vuoi che ascoltiamo. Sì, dai. Come si intitola la canzone? Dai. Se c'è una cosa che mi fa impazzire. Dai, cos'è che è una cosa che ti fa impazzire? Dillo, dai. Non posso dire. Va bene, ce l'ascoltiamo da Amorevolmente, Gilda Regenzi. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è un tuo modo di fare, è un tuo modo di parlare. Ti guardo per ore, non mi stanco di imparare quella tua pazza così particolare. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è che guardi come i gatti, è il profumo che ti metti, mi parli per ore, non mi stanco di ascoltare quella tua voce così particolare. Amore, amore, lasciamelo dire. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è il sorriso che fai, è la bocca che hai, sono i baci che dai. C'è poco da fare, è impossibile negare che tu mi piaci, mi piaci da morire. Amore, amore, lasciamelo dire. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è il sorriso che fai, sono gli occhi che hai, sono i baci che dai. C'è poco da fare, è impossibile negare che tu mi piaci. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mina in versione Gilda. Yes. In versione shuffle. Vediamo yes. Questo è lo shuffle, puro shuffle. È un genere musicale, esatto, che andava Biba Blue, esatto, she's in America, baby, fino agli anni 50. Vai avanti, quello lo shuffle. No, devo dire, ecco, vai, vai. Facciamo fare l'inglese a chi sa fare l'inglese. Guarda, poi se comincio io. Io volevo chiedere una cosa a Luca, se mi consenti. Sì? Luca, com'è lavorare con Gilda? È così difficile, è così facile? Di delle bugie, No, è piacevole sicuramente, soprattutto anche per il discorso che diceva prima del clima che si crea, no? Anche sì, con gli altri della band. Gilda lì è stata, secondo me, intelligente anche a mettere insieme una squadra dove non è solo lavoro, ma è divertimento e c'è sintonia. Quindi questo è importante, perché siccome il lavoro bisogna farlo e non è sempre già di per sé piacevole, pesante, no? Esatto. Già. Se si lavora con uno spirito e c'è sintonia, è fondamentale. Viene anche meglio tutto. Sì. Certo. Esatto. È proprio il gruppo qua. Ma poi riusciamo poi a regalarlo a chi ci ascolta, questo è importante. Bisogna imparare a regalare le emozioni. le emozioni, certo, quello che canti e quello che vivi in quel momento, quello che sei sul palco, bisogna regalarlo, se no non ha senso cantare, cioè, diventa di routine o come suonare, certo, quello che loro riescono a fare benissimo, e questo è diventa poi così un amalgamarsi un'unione, un amalgamarsi di cose, di musica, di note, di parole, che deve arrivare. Sì, perché non deve essere una routine, no, un continuo, esatto, la stessa cosa, deve essere cambiata sì, assolutamente. Deve dare il proprio passo. Posso intervenire? Dai, vai. In quello, sì, non deve essere. Vicino al microfono, Kenneth. Monotono. Abbassati. Io cantante, questo è un braccio lungo come mia gamba. Proprio... Alza la seggiola, è un consiglio. Intelligente. Ci voleva una donna, non si alza la seggiola. Sì, adesso si è abbassata. Vuoi la mia che è più alta? No, quella è il più alto. Guarda, non è come fare su Weight Watchers. Allora. Beh, ci stai allora, adesso. Sì, ecco, comunque, ecco, quando dimmi. Si parliamo sul lavoro, non può essere sempre come in ogni lavoro. Facciamo che questo mestiere tutti quanti vedono, e spesso la gente ma fai musicista, quale tipo di lavoro è, o c'è anche la monotonia, cioè, diciamo che la crema è sottile sulla torta, c'è tanta torta e poca crema, ok, quella è la realtà della musica, ma comunque è la musica, l'arte, magari un lavoro qualsiasi, ma il piacere di fare quello che fai si porta a mangiare quella maggior parte delle torte e le creme. Ancora stiamo parlando sul cibo. Sì, no. Sì, tu sei sono affanatico. Non c'è la Kenneth, non c'è la polenta qui, mi dispiace. No, polenta, guarda. Mi dispiace anche proprio. Infatti c'è dentro questo cibo. Cosa c'è? Di Gilda. C'è una foto di Caffè DM Padova. Perché? Allora, questo CD, questa fotografia in realtà innanzitutto va bene, rispecchia, se guardi rispecchia un po' le macchine d'epoca, quindi un'epoca diversa che va un po' a legare al jazz, ok? Gli anni 30, gli anni 50, gli anni 40, sì. 20 25 mi guardi male, ho sbagliato. Se vuoi, dipende in quale periodo che vuoi fare. No, sì, no, comunque vabbè, era diciamo Kenneth, non contraddirla, digli sempre di sì. Senta, hai ragione, visto, hai ragione, lui impara, lui impara. Warren Beatty come... Esatto, poi caffè perché scusa, ti ho pestato il piede ma non era il piedino, caffè perché uno dei nostri sponsor è Elite Caffè, era un omaggio anche per lui. Posso dirlo, Paolo? E lì caffè, dove fanno di quelle cose da mangiare che sono la fine del mondo, parlando di cibo. No, comunque è per questo, sì? Comunque un richiamo appunto allo sponsor, ma soprattutto un richiamo anche al genere, che comunque va a legare tutti i brani. Non ho capito. Ah, oh, grazie. Sì. Luca, hai voglia di lavorare? Tocca suonare. Per forza, sì, perché sono 22:15 e poi facciamo un gran finale. Sì? Yes. Cosa ci fai ascoltare intanto? Beh, un pezzo chiaramente di Omar Pedrini, perché non poteva assolutamente mancare stasera. Che salutiamo. Io ho che provato salutiamo. A chiamarlo, ma c'ha sempre la segreteria. Mannaia, lui sempre impegnato, però chiaramente poveretto. Ce lo saluterai, lo è sempre veramente tanto preso, quindi intanto lo ringrazio di tutto quello che sta facendo, che ha fatto per me, e spero di rivederlo presto, e voglio omaggiarlo con questo brano che è Ultima Poesia, e una grande poesia anche questa qua. Ok, Luca, tu sei pronto? Arriviamo un attimo. Ok, intanto faccio partire lo stacchetto e lui si prepara. Vi ricordo che questa è sempre il Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Gilda Regenzi, con Paolo Salvarani, Luca Rossi e con l'ospite, il special guest Kenneth Bailey. Thank you. quanto basta per capire oltre me la ragione di una vita che c'è, ti regala ciò che porterà via. Lascio un'ultima poesia. Cercherò essere me stessa e niente di più, dipingendo il mondo come vuoi tu, per scusarmi e se domani andrò via. Lascio un'ultima poesia, la mia. Cercherò di essere me stessa e niente di più, dipingendo il mondo come vuoi tu, e scusarmi e se domani andrò via. Lascio un'ultima poesia, la mia, la mia. Brava Gilda. Grazie. Sei sempre dolcissima tu quando entri nelle canzoni. Grazie mille. Cosa ti piace ascoltare come musica, Gilda? A parte tutto. Hai qualche preferenza, qualcosa? Ma non saprei, dipende dallo stato d'animo. Mi piace spaziare, quindi dalla musica italiana alle cose più contemporanee, a dei pezzi magari più vecchi. Tipo anche Sade mi piace tantissimo. Italiano, vabbè, dipende, magari accendo la radio, dipende. I miei standard jazz, no, mi piace tutto, dipende molto dal mio stato d'animo, appunto, dipende da cosa sento in quel momento e prendo un CD e vado. Non abbiamo ancora letto i tuoi dati, se qualcuno volesse contattarti, dove può acquistare il disco, il tuo sito? Allora, questa è la parte più difficile. No, intanto ho un sito su www.gildaregenzi.it e lì potete trovare tutte le informazioni possibili su di me, altrimenti ho una pagina Facebook, è Gilda Regenzi, appunto. Altrimenti per acquistare il mio CD potete benissimo scaricarlo da iTunes. Legalmente, diciamo. Legalmente. Sempre legalmente. Assolutamente, sempre tutto a norma. Esatto. O altrimenti sul sito Allidon, potete trovare www.allidon.it, potete acquistarlo lì e vi arriva direttamente a casa. Più comodo di così non si può. Sì, perché purtroppo bisogna dire che i negozi di dischi stanno chiudendo ormai esatto. Tutti. Comunque in distribuzione nazionale, se viene richiesto, richiesto comunque è facilmente trovabile, insomma. I tuoi prossimi concerti invece? Allora. Beh, ho alcune cose non attinenti al CD, poi comunque ho una grande serata invece che mi aspetta il 25 di aprile a Jetson Live a Brescia, e accorrete numerosi. Con tutta la band? Assolutamente, sì, siamo band completo, ospiti al completo e... E c'è anche lui? No, niente. Se no, magari passa di là, sarei ben felice di averlo con me. Kenneth, sei di passaggio? Anche perché io adesso... No, parla vicino al microfono. Kenneth, vicino al microfono. Adesso te lo leghiamo qua, facciamola. Però vedi, è stato colto di sorpresa. Sì, ma esatto, Agostino, no, hai notato quando si avvicina al microfono ha una voce proprio da presentatore. Cioè sì, certo. Vedi, vedi. Sì. Di vero, proprio. Va bene, sono le 22:22. Non mancate allora, non mancate il 25 di aprile, lo ripetiamo, al Jetson Live di via Genova a Brescia, che è un locale tra l'altro famosissimo, nel senso che tutte le più grandi star passano di lì. E ovviamente tocca adesso anche a Gilda. Wow, grazie. No, volevo citare appunto, visto che è stato prima scherzosamente detto a Kenneth che potrebbe essere anche, ha una bella voce radiofonica, volevo citare Ronnie Jones, che ha aperto il mio CD, quindi la voce diciamo presentatrice del mio lavoro, e del nostro, scusami, perché il nostro lavoro è Ronnie Jones, quindi volevo davvero ringraziarlo ancora e salutarlo. Una grande voce radiofonica, assolutamente, fatto la radio. Sì, un mitico, esatto, mitico. Esatto. Ecco. Poi anche presentatore televisivo, esatto, infatti, come si ricorderà Popcorn, esatto, ecco. E quindi insomma bisognava ricordare assolutamente anche lui, certo. Siamo quasi in chiusura, Maurizio. Sì, sono 22:23, però c'è sempre tempo per fare qualcosa, sì, live, assolutamente, Gilda. Questo è ma visto che a me adesso la versione sul disco di Dimmi non mi piace più, così ormai, visto che con Kenneth mi piace tanto cantare e visto che magari così è qua perché non riproporla, perché è stato talmente bravo che, anzi, siete stati talmente bravi, poi esatto, è talmente bella così che, voglio dire, anche improvvisata. No, abbiamo solo adesso quello. Un attimo che arriva quello. Kenneth si sta arrampicando al microfono, sì. E così poi riuscirà. Ce l'hai fatta, sei arrivato? Dimmi dimmi, Kenneth. Che bella coppia che siete voi due. Aspetta. E parla con te. Aspetta. Sì, vai. Allora, vabbè, prima di chiudere, ovviamente, Gilda, noi come radio, come emittente, insomma, ti ringraziamo di aver aderito alla grazie, grazie a voi, davvero sono stata non bene di più. Davvero, penso che ritornerò domani, ci siete anche qua, sì. Ecco, vengo anche domani. No, purtroppo la distanza non ce lo permette, ma altrimenti sarei sempre qua. Poi dovrebbero dirmi, dopo una settimana che sono qua, mi dico, ti prego, stai a casa un po', mettiti, vai in ferie. No, non ti preoccupare. Perché poi io inizio a parlare, non la smetto più. Però ti strappo una promessa. Dimmi. Prossimo disco ce lo vieni a presentare qui? Cazzarola, certo. Si può dire cazzarola? Cazzarolina. Capperi, Opperbacco, via, certo, volentieri, grazie. Accetto subito. I 7-8 pezzi che non sono stati tanto inclusi nel CD, quindi sono già pronti. Paolo è già pronto. Sì, chiaro, certo. Sì. È già pronto qualcosa. Toglimi una curiosità, Paolo. Vedo Paolo sudare. Ricomponi lo stesso staff per il secondo disco? Assolutamente sì, te lo dico io. Perfetto. Decido io. No, scherzo. Sta proprio sudando adesso. Ti porti i saluti di due cantanti. Una è stata qui la settimana scorsa, cioè Sabrina Zunnui da Roma, ci sta ascoltando e ti saluta. Grazie, un bacio grande Sabrina, grazie. E poi un'altra cantante che è stata qui anche lei da Udine e si chiama Giulia Daici. E anche a Giulia un grande bacio, che è stata qui anche lei tempo fa, insomma. E complimenti. Allora, Kenneth, grazie a te. Parla vicino al microfono. Te lo regalo quella mano, bene. Allora, posso dire che ho un website anche, un sito web, perché non abbiamo mai detto, vorrei che magari, certo, c'è qualche ascoltatore che vede anche qualcosa che faccio anch'io. Assolutamente. Perché sento molto sbattuto qua. No, sto scherzando. Se vuoi è www.kenbailey.com per dare un'occhiata. No, un'occhiata, andate a visitarlo, proprio stateci su un po', ecco. Diciamo che lui ha un progetto molto, molto forte con Michele Bonivento e Francesco Casale, che si chiama Gamma 3. Questo è un altro progetto. E verrà a presentarlo qui perché l'abbiamo già strappato la promessa con la sono eccezionali, sono in tre ma sembrano in 50 sul palco. Luca, grazie anche a te. Grazie a voi, mi sono trovato benissimo, è stato bello. Luca, grazie, ti dicevo di essere venuto qui a accompagnare Gilda questa serata. Eh sì, grazie. Grazie, intanto tu così ti prepari. Grazie. Ti aspettiamo ancora. Tra l'altro, per me è stato un piacere, oltre a conoscere voi, conoscere anche Kent, perché non lo conoscevi di persona. Esatto, l'ho sentito, sono andato a sentirlo diverse volte con Michele Bonivento, anche sì, sì. Con Casale, ti ho sentito Frank, assolute a Frank Casale anche, perché anche a Frank, mite. Certo. E alle cantine dell'Arena tempo fa, sì. Ma dai. Sì, sì. Eh sì, che è bello lucido, dovresti vederlo. Non è una persona che non si nota. È così, quindi è stato la cantina, bro. Era buia un po', buia, Loro hanno un bella atmosfera. La prossima volta ti consiglio il cappellino col faro davanti, così magari Paolo, dai grazie. Segnali luminosi. Paolo, no, grazie di cuore, grazie anche a voi. Grazie a tutti, anche del nostro rapporto di amicizia che abbiamo in gran certo. segreto. E un saluto a tutti i tuoi, ai vostri ascoltatori di Blu Radio Veneto, e grazie. Speriamo di ritrovarci molto presto quando vuoi. Grazie, porte... sono stata grazie benissimo, grazie quanti. Ancora un bacio a tutti gli ascoltatori e da Gilda Regenzi, e grazie della amore nostra... Ciao. Della nostra amicizia Gilda. Grazie, okay. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora ci salutiamo con questo bis che non capita spesso che lo facciamo qui dal vivo, ma insomma se sono vi... davvero onorata di farlo, e con Kenneth Bailey ci emozioniamo di nuovo con grazie dimmi se vi volete preparare intanto. Yes. Quindi... salutiamo anche la Patrizia. Thank che ci ha dato la sì, grazie a Patrizia, la fotografa, la fotografa, la fotografa ufficiale, appunto. Dimentichiamo spesso Maurizio è Agostino. No, sì, diciamo mai questo, cioè la radio è loro e la dimentica. Okay. Grande, proprio... bravo, hai ragione. Perché questo è calore, e io ho sentito proprio da solo anche, voglio dire, per cui non è proprio anche qua, perché qua in questo qua, studio fa molto caldo, sì, certo. E non è il caldo perché fa caldo, ma è proprio loro che ce lo emanano questo caldo. Fa caldissimo. dai, non esageriamo. Vabbè, dai, fa caldissimo. Preparatevi che noi lasciamo il posto a, grazie. Grazie a te Gilda e a Kenneth e a Paolo e a Luca, e noi lasciamo il posto ovviamente a Berto Prisco con la sua classifica, la sua musica rock. Prima però ci ascoltiamo questa chicca, questa perla fantastica, tratta dall'album Amorevolmente di Gilda, e si chiama Dimmi. Un grazie di cuore e buon ascolto. Quante sono cose che non si vedono in un uomo, come il cielo tra una foglia e l'altra, quando la notte sullo sfondo ride e canta. Certe cose non sono da dire, se lo so potrai forse capire, meglio stare sul banale, canto qui una frase commerciale. Dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu se c'è un posto per odiarti almeno, e dimmi se è vero che esisti, o dimmi tu se solo un diavolo e mi tenti. Can you see through the color of a man's eyes, to see his heart's intention, like the view, had the view and the quality of spring, but the sun after dawn changes everything. Oh, certe cose non son da dire, se lo so potrai forse capire, meglio stare sul banale, ricanto qui una frase commerciale. Tell me, is there a way I can love you more? Is there a place I can hide my love from you? Give me one reason I should suffer more. E dimmi se è vero che esisti o se invece sei solo un diavolo e mi tenti. Grazie, ciao. Buonanotte, thank you.